Italia in controluce. Buon pomeriggio, oggi è il 7 di luglio, vi parla Daniele Biacchesi, questa è la seconda edizione delle due quotidiane di Italia in controluce. La prima parte di Italia in controluce è dedicata a quello che sta accadendo in questi giorni a Parma. La giunta guidata da Pietro Vignali è travolta da un'inchiesta sulla corruzione che coinvolge persone vicine al sindaco e ogni volta che si riunisce il Consiglio Comunale centinaia di cittadini protestano. Paolo Piacenza ha intervistato Pietro Vignali. Reggerete oppure la pressione si fa troppo forte, quindi la situazione sarà difficile da gestire? Ma reggeremo fin tanto che la maggioranza regge. La maggioranza ha dato segni di grande compattezza perché erano tutti presenti e hanno votato tutte le delibere. Tra l'altro erano delibere molto delicate, molto anche importanti per il futuro di questa città, perché si parlava dell'approvazione dei piani industriali di tutte le società partecipate, con un segno di grande trasparenza, un contributo di 17 milioni per completare il cantiere della stazione e poi la cosa più importante, il finanziamento di 25 milioni dato a una nostra società Parma Infrastrutture per pagare decine e decine e decine di imprenditori piccoli e medi che hanno già fatto dei lavori per l'amministrazione che aspettavano di essere pagati e che il patto di stabilità non ci consentiva di pagare. Quindi diciamo tre delibere, tre macigni importanti in cui la maggioranza si è dimostrata compatta. E come la preoccupa questo rapporto difficile con almeno una parte della città, questi cittadini autoconvocati? Prendo atto, però considerando il fatto che non sono la città di Parma, ma sono qualche centinaia di persone che sono venute a manifestare qui sotto al municipio, l'importante è che rimangano delle manifestazioni civili e non degenerino come è successo nelle volte precedenti, in atti anche che non credo che siano totalmente, come dire, ben visti anche dalla città. Per quanto riguarda le inchieste, quali sono le cose che lei è in grado di dire? Inchieste sicuramente non belle perché riguardano dei fatti non certamente simpatici, sono fatti però strettamente personali da come sono stati descritti dalla magistratura, che io assolutamente non conoscevo, di cui non ero a conoscenza e di cui non potevo neanche essere a conoscenza, perché figuriamoci se un sindaco può sapere se uno si fa fare un giardino o cose di questo genere, nel senso che non era totalmente nelle mie possibilità. Ecco, però queste persone erano considerate vicine a lei. Sì, è vero, vicino a me come tantissimi altri dirigenti, nel senso che il sindaco nomina decine e decine e decine di dirigenti, ce ne sono dei più vicini, dei meno vicini, ma il fatto che fossero vicini e che ci fosse un rapporto di amicizia non significa che io fossi seduto al fianco del loro tavolo e che vedessi tutto quello che facevano. Quale futuro vede per Parma in questa situazione di tensione? Ah, guardi, il futuro di Parma è una città che ha delle risorse straordinarie. In questi anni è una città che è cresciuta molto, è migliorata molto, abbiamo fatto delle cose importantissime, io sono 13 anni che lavoro sodo per questa città, prima come assessore, adesso come sindaco, e quindi sono convinto che è una città che migliorerà sempre di più, soprattutto con il completamento delle opere che noi abbiamo in corso, come la stazione, il ponte a nord, la scuola europea, la sede dell'EFSA. Ma chi sono i cittadini di Parma che contestano il sindaco? Paolo Piacenza ha intervistato Enrico Arillo, referente del Popolo Viola. Tutta la cittadinanza si è indignata di fronte a quello che è successo, perché appunto tutti gli scandali che hanno preceduto quest'ultimo avevano già molto messo alla prova l'esistenza dei cittadini, perché comunque vedere il proprio nome accostato a scandali, il nome della città accostato a scandali più o meno una volta al mese aveva già molto messo alla prova i cittadini. Poi dopo quest'ultima con arresti di dirigenti comunali posti lì e difesi in precedenza dagli altri scandali dal sindaco ha fatto scatenare l'ira di tutti i cittadini. Ecco, ma dopo la vittoria politica ottenuta da Vignali in consiglio comunale, quali sono i prossimi passi? C'è il rischio, insomma, che il movimento si stanchi? Allora, direi di no, nel senso che l'indignazione è talmente tanta che al momento non ci sono segni di stanchezza, anzi, se guardiamo le cifre dei partecipanti delle ultime tre manifestazioni, avevamo circa 400 venerdì, quando subito sono scattati gli arresti, siamo arrivati a 500 il martedì e ieri eravamo circa 700. Filippo Vendemiati è regista di un film chiamato È stato morto un ragazzo, dedicato al caso di Federico Aldo Vandi, morto a Ferrara alcuni anni fa. Lo ha intervistato per noi Paola Ceretta. Che significato ha questo David di Donatello? È un evento inaspettato, sarei ipocrita se non dicessi che mi riempie di soddisfazione personale e anche professionale, sia per i motivi per i quali ho fatto il film, sia per ovviamente il riconoscimento del lavoro che ho fatto insieme a tante altre persone. Nello stesso tempo non posso non dimenticare come questa soddisfazione nasca da una tragedia profonda che ha coinvolto la famiglia e che unisce altre tragedie simili. E poi ho una domanda alla quale credo nessuno possa rispondere in questo strano paese. Cioè, io riceverò il David di Donatello per aver fatto un film anche su quello che una madre pensa sulla morte del proprio figlio. Questa madre ora, per gli stessi motivi, viene rinviata a giudizio per diffamazione e da vittima dello Stato si ritrova tra il banco degli imputati a rispondere di un reato contro lo Stato. Perché ha scelto la vicenda di Aldo Vandi? I motivi sono tanti, direi in particolare uno, ecco, nel senso che io ho seguito come giornalista questa vicenda dall'inizio e poi ho seguito tutte le udienze. Alla fine ho sentito il bisogno anche quasi fisico, insomma, di non uscire da questa storia, cioè di non buttarmi come spesso facciamo sulla storia successiva. E una volta che c'è stata la sentenza di primo grado, ho deciso di raccontare non solo la notizia, ma di raccontare tutta la storia, perché l'ho giudicato un caso emblematico di questo paese che non riesce a liberarsi dalle proprie contraddizioni, dei propri limiti, tanti dei quali riguardano il mondo della giustizia, le vittime solitarie della giustizia. Questa è la vera riforma della giustizia di cui non si parla in questo paese e che non riguarda ovviamente i potenti, ecco, ma riguarda le persone comuni. Cos'ha di diverso e cos'ha in comune con altre vicende? Tutti questi casi hanno dinamiche e responsabilità processuali diverse, è bene non mescolare tutte queste vicende. Insomma, in particolare è quella di Carlo Giuliani merita un capitolo a sé. Alcune di queste storie sono andate a processo, altre no, alcune sono avuto degli impedimenti, altre hanno avuto una parziale giustizia. Ma c'è una cosa però che unisce tutte queste storie ed è l'elemento più importante da considerare criticamente. Ecco che in tutti questi casi c'è una costante: laddove ci sono dei rappresentanti dello Stato che in qualche modo sbagliano o commettono dei reati, e il comportamento riflesso del Ministero dell'Interno, delle questure o comunque dei superiori di questi rappresentanti dello Stato non è quello di aprirsi alla società, di rendere trasparente, di denunciare i propri rappresentanti che sbagliano, ma invece quello di coprire, di dare risposte evasive, di essere omertose. Ecco, Stefano Cucchi si è spento da solo, Federico Aldo Vandi muore per malore, muore per droga, Giuseppe Uva muore perché è ubriaco. Le persone possono sbagliare, non può sbagliare invece lo Stato. Che difficoltà ha incontrato nel costruire il documentario? Il racconto è uscito molto di getto, molto sull'onda emotiva. Le difficoltà sono forse più adesso. Il fare i conti con quanto uno ha fatto, con i riscontri che uno ha avuto, onestamente rimanere coi piedi per terra. E poi certo ci sono stati problemi anche burocratici che tuttora persistono nei confronti della RAI, perché io sono un dipendente RAI e resta per me un grosso rammarico. Avrei preferito, come inizialmente avevo tentato, di farlo produrre alla RAI questo documentario, e la RAI ha dato risposte evasive e quindi l'ho realizzato da solo con un produttore di Bologna che è la Promo Music. Che rapporto ha con la famiglia Aldo Vandi e in particolare con la signora Patrizia, la mamma di Federico? È un rapporto quotidiano quasi, che continua, straordinario. Questa donna ha una forza interiore mostruosa, è riuscita in qualche modo a elaborare questo rutto dandosi agli altri in qualche modo, non solo per la dignità del proprio figlio, ecco, ma per la dignità anche di altre persone. Quindi sta costituendo insieme ad altri, insieme ad Ilaria Cucchi, un'associazione che si chiama Le Loro Voci, che ha proprio il compito di tutelare da un punto di vista psicologico e morale altre persone che sono vittime di casi di questo tipo, e ha anche il compito, insieme a parlamentari, a rappresentanti delle associazioni, a legali, di costituire una sorta di osservatorio, perché chi commette oggi abusi di questo tipo non non possa pensare di passarla sempre impunita. Quali sono i documenti che hanno dato più forza a questa storia? La famiglia mi ha messo a disposizione tutte le fotografie e i film di famiglia. Io ne ho fatto un uso molto molto moderato, perché un po' odio le lacrime della cosiddetta TV del dolore. Ho molto apprezzato che Lino Aldrovandi e Patrizia Moretti mai si siano rifugiati nella facile scorciatoia dei plastici televisivi e delle trasmissioni del pomeriggio, con parenti che piangono, urlano e litigano contro presunti colpevoli. Devo dire che il contributo massimo che mi hanno dato è stato il fatto di sentire che dietro questo documentario c'erano loro. Cosa le ha tolto e cosa le ha dato girare questo documentario? Mi ha dato molto, perché non credevo che oggi il giornalismo in qualche modo riuscisse a trovare nuove strade per parlare di casi emblematici e poco conosciuti. Mi ha dato la consapevolezza e la convinzione che fare oggi giornalismo di cronaca, come in genere viene fatto in Italia, davvero non ha più senso. Lei è un giornalista e ha girato un documentario su un fatto di cronaca. Come dovrebbe essere fatta la cronaca oggi? Secondo me la cronaca, in particolare io mi riferisco a quella televisiva, che si è schiantata su un binario morto della stazione di Avetrana. Già c'eravamo andati molto vicini, da Cogne in poi, passando per Perugia. C'è questo accanimento sulle tragedie familiari di scarsissima rilevanza sociale. Abbiamo un paese che ancora le libertà degli imprenditori e dei cittadini sono negate dalla criminalità organizzata, e noi non ne parliamo quasi mai. I delitti di mafia ormai hanno un trafiletto, e quelli interfamiliari durano ore e ore sui telegiornali e sulle trasmissioni del pomeriggio. Italia in controluce, la seconda edizione. Torniamo domani 6:30 su Radio 24.